te vene prego, non lasciati che io dorma questo sogno, sia tranquillo da bambino, sia che puzzi devo stare da ubriaco. Forse sto sognando un viaggio amato sopra un carro senza ruote, trascinato dai cavalli del maestrale, del maestrale. Lasciate che io dorma questo sonno, c'è ancora tempo per il giorno quando gli occhi si imbevono di pianto, i miei occhi di pianto. Thank you. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Vorrei dire due cose. Vorrei invitare, magari qualcuno forse non ha ben capito, che noi stiamo suonando, stiamo cercando di darvi delle cose, stiamo cercando di fare un concerto insieme, quindi pregherei i Frizzi e i Lazzi di lasciarli magari alla fine dei brani e non durante, perché veramente è una cosa, se non altro, per buona educazione. Poi alla fine di ogni brano fate come volete, no? E sopra allacciarmi al discorso di dire che libertà vuol dire anche educazione, vuol dire anche rispetto degli altri, qualsiasi cosa uno faccia, perché stare qua sopra non è facile. Pregheremo tutti quelli che non sono stati invitati a venire qui a farsi rimborsare immediatamente i soldi al biglietto e andare a casa, subito a casa. Grazie.